Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Allora, dopo le file ai distributori che ieri mattina hanno mandato in tilt molte città, neanche lo sto a raccontare cosa è successo a Milano, nel pomeriggio la buona notizia, la notizia della revoca dello sciopero che era stato indetto dai benzinai per i prossimi 3 giorni, quindi nessuno per fortuna rischierà di rimanere a secco in qualche tratta autostradale o da qualche altra parte. La serrata è stata scongiurata dopo la lunga riunione che si è tenuta al Ministero dello Sviluppo Economico, dove governo e gestori sono riusciti a trovare un'intesa sui punti più controversi del disegno di legge che riforma la rete di distribuzione, che tra l'altro è uno dei tanti punti oggetto della controversia per l'appunto. La revoca dello sciopero è importante per i cittadini, ha commentato il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Saglia, promettendo che il Ministero rafforzerà la vigilanza sull'andamento dei prezzi, anche con l'ausilio della Guardia di Finanza, detto Saglia, con l'intenzione di sanzionare pesantemente eventuali fenomeni di carattere speculativo, vale a dire aumenti anomali scattati per esempio proprio a ridosso dell'agitazione e prontamente denunciati dalle associazioni dei consumatori, situazioni che conosciamo anche in altri momenti dell'anno, per esempio a ridosso delle ferie, a ridosso dei lunghi ponti. Allora, tutta questa situazione di ieri ci ha dato un po' così il presupposto, ci ha fornito il presupposto per fare il punto anche a Salva Danaio sul tema del costo dei carburanti, un vero salasso per chi lavora per esempio nel mondo dei trasporti, per chi fa l'autotrasportatore, per chi fa anche un altro tipo di lavoro ma deve viaggiare molto, e il costo del carburante rappresenta una voce di bilancio bella pesante. È un tema che ci interessa a tutti, anche perché negli ultimi anni abbiamo spesso parlato dei capitoli aperti su questo versante, oltre alla riorganizzazione della rete, anche la, per esempio, presenza dei distributori nelle aree dei grandi centri commerciali. Questo è un tema che fa parte ovviamente della questione più complessiva della riorganizzazione della rete. I distributori indipendenti, le pompe bianche, le tessere accumula punti, i siti internet per trovare i distributori più convenienti vicino casa. Allora, stamattina un po' il punto della situazione sulle questioni aperte, ma anche qualche suggerimento pratico ai nostri ascoltatori che hanno una spesa un po' ingombrante nel corso del mese, magari qualcuno che ha cambiato lavoro si trova adesso anche a cercare delle informazioni per poter risparmiare su questa voce di spesa, insomma, come può fare? Abbiamo tanti interlocutori autorevoli, intanto ringrazio e saluto, perché davvero quando c'è questo problema che si riapre non facciamo altro che disturbarlo. Luca Squeri, presidente della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti della Confcommercio, la FIGISC. Squeri, buongiorno. Buongiorno a voi. E bentornato. Bentornato anche a Roberto Tascini, segretario nazionale dell'ADOC, che saluto. Tascini, buongiorno. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Peraltro c'è anche questa notizia che abbiamo commentato poco nei giorni scorsi, ma è interessante. L'ADOC, insieme ad altre associazioni dei consumatori, Codacons, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori, hanno fondato questa sigla che si chiama CASPER, Comitato contro le speculazioni e per il risparmio, che proprio ieri, in vista di questo sciopero poi scongiurato, era tornata a chiedere, questa sigla, l'intervento dell'antitrust proprio in merito ai prezzi dei carburanti e allo sciopero dei distributori. Poi ci collegheremo con Roberto Simili, direttore dell'Iper La Grande I di Castelfranco Veneto, che aveva fatto tanto parlare di sé nei mesi scorsi per l'enorme risparmio che gli automobilisti trovavano a questo distributore, e aveva fatto anche un po' arrabbiare, come dire, tanti, tutta la categoria. Poi vi riassumeremo di nuovo tutta la vicenda, e infine ci collegheremo con un'altra associazione dei consumatori, la Diconsum, con Paolo Landi, perché ci racconterà come sta andando questa loro iniziativa, che è il sito prezzibenzina.it, dove è possibile per ogni addirittura automobilista inserire il prezzo più conveniente del distributore più economico che ha trovato, magari appunto percorrendo una strada abituale per ragioni di lavoro e quant'altro. Insomma, tante cose da raccontarvi, speriamo tutte interessanti, e ovviamente microfono aperto anche alle vostre considerazioni all'800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666. E vedo già, pur non essendo ancora stati sollecitati, alcuni ascoltatori che sono pronti a dire la loro sul tema del peso del fisco sul costo della benzina. Mamma mia, quante volte ne abbiamo parlato, quella è veramente una battaglia, a quanto pare, che non si riesce a vincere in nessun modo, e affronteremo anche questo stamattina. La borsa è negativa Parigi scende dello 0,4%, Francoforte meno 0,4%, Londra meno 0,28%, Milano meno 0,61%, pesano su Piazza Affari Autogrill in calo dell'1,59%, A2A meno 1,58%, Terna meno 1,42%, Tenaris meno 1,34%, quindi vedo titoli che tradizionalmente vengono considerati piuttosto difensivi dai risparmiatori, ma cede di nuovo il risparmio gestito di Azimut meno 1,16%, Ansaldo meno 1,10%, Enel, Geox, Mediolanum e UbiBank anche Intesa San Paolo in ribasso di un punto, quindi vedo ancora delle vendite sul settore bancario. Premiata da un buy, un giudizio comprare di Deutsche Bank, Luxottica guadagna l'1,65%, Mediaset più 0,6%, Pirelli più 0,6% e poi Fiat, grande osservato speciale di questi giorni. Domani c'è l'assemblea degli azionisti per approvare la scissione della divisione auto e tra l'altro c'è anche un riflettore acceso dalla Consob su questa operazione. La Consob chiede di assicurare un'informazione corretta e completa al mercato sulle misure che saranno prese. L'euro sul dollaro a 1,2981, abbiamo già parlato dell'enorme manovra che è stata fatta in nottata dal governo giapponese per frenare lo yen, una manovra parzialmente riuscita. L'euro sullo yen quota adesso 110,52, il dollaro sullo yen a 85,13 dopo che ieri era di nuovo scivolato ai minimi da 15 anni. Allora, direi che possiamo lasciare la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina. Ne abbiamo parlato diffusamente nel corso dei nostri giornali radio, ieri incontro al Ministero dello Sviluppo Economico con il sottosegretario Saglia e i gestori dei carburanti italiani, titolari dei distributori di benzina, perché c'era in ballo, come sapete, questa serrata molto forte, molto importante, addirittura di 3 giorni, la vera paralisi delle pompe di benzina. Serrata, sciopero che è stato scongiurato perché insomma si è trovato un accordo sulle finali e al termine di questa riunione sentiamo al microfono del nostro Vincenzo Miglietta che cosa ha dichiarato il sottosegretario Saglia. Il governo è ovviamente soddisfatto del risultato di questo lavoro. Noi stiamo ragionando ormai da molti mesi alla riforma della distribuzione dei carburanti nel nostro paese. L'obiettivo è quello fondamentale di ridurre il prezzo della benzina per i cittadini, azzerando lo stacco che ci differenzia da una parte dell'Europa. Ovviamente noi non vogliamo far pagare questa riduzione di costo ai posti di lavoro, perché in tempi di crisi sarebbe folle che un governo cercasse di approvare una riforma che può avere un effetto benefico ma che poi riduce i posti di lavoro nel paese. E c'è stata soddisfazione per l'intesa raggiunta anche dal presidente dell'altro sindacato di categoria, la FAIB Confesercenti, Martino Landi. Sentiamo questo contributo sempre raccolto dal nostro Vincenzo Miglietta. C'è una soddisfazione per come abbiamo raccolto questo importante punto d'incontro. Non c'è solo il recepimento degli emendamenti che modificano il disegno di legge che deve essere presentato in Consiglio dei Ministri, ma c'è anche un impegno ben preciso per contribuire a costruire una rete della distribuzione carburanti all'avanguardia e all'altezza del paese in cui siamo. Questi interventi, mi auspico, come ci auspichiamo tutti, che servano anche a una diminuzione, un abbassamento del prezzo del carburante. Allora, Luca Squerio, comincio con lei naturalmente perché anche lei insieme a Landi, all'altra associazione, la terza organizzazione di categoria, era all'incontro con Saglia. Io vorrei tradurre questi argomenti in termini semplici ai nostri ascoltatori per capire quale fosse complessivamente l'oggetto del vostro conflitto con il governo in questo momento. Il tema importante è la riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nel nostro paese. Ci sono tante cifre che imperversano sempre quando si parla di questo argomento e si fa questo paragone Squerio con la Francia. In Italia esistono qualcosa come, poi non so quale sia la cifra corretta, 22.800, 25.000, 23.000 benzinai, in Francia 12.700, in Germania 14.000, 14.800. In sostanza il tema è che in Italia si vuole ridurre questo numero senza ovviamente penalizzare i posti di lavoro. Qual è in sostanza il punto, il nocciolo della questione con il governo? Ma guardi, bisogna partire un attimo da qualche anno fa per prendere il bando alla matassa, perché noi abbiamo cominciato alla fine degli anni 90 proprio a condividere che ci fosse la necessità di ridurre il numero degli impianti. Si sono fatte delle riforme importanti in tal senso, all'epoca gli impianti erano 23.000, si voleva appunto arrivare verso i 17-18.000, questo con l'allora ministro Bersani. Ci furono importanti interventi, purtroppo smentiti guarda caso, dallo stesso ministro Bersani, vi ricordate le lenzuolate, sì, per cui ci furono delle modifiche normative che vollero deregolamentare il settore. Il risultato qual è stato? Che gli impianti stanno crescendo, lei ha detto un numero esatto, per cui inizialmente erano diminuiti, poi c'è stata una rincorsa alla riapertura e ecco che siamo nella necessità di rimettere mano a un settore che va riammodernato proprio per trovare una maggiore efficienza rispetto agli altri paesi. Senta, ci può dare la sua, il suo commento rispetto alla denuncia che invece hanno fatto le associazioni dei consumatori, e cioè tutte le speculazioni che verrebbero così a presentarsi sul mercato in concomitanza? Adesso noi parliamo dello sciopero perché questo è quello che abbiamo visto, e cioè in sostanza nei giorni antecedenti alla serrata ovviamente molti suoi colleghi si sarebbero subito affrettati ad aumentare il prezzo alla pompa per approfittare appunto della corsa al carburante che i consumatori avrebbero fatto. Lo escludo nella maniera, non dico più categorica, ma nella maniera più semplice. In realtà cos'è successo? E da lì poi non c'è peggiore disinformazione che malinformare, no? Cos'è successo? Venerdì scorso il market leader ha aumentato il prezzo alla pompa perché il Platts, che come sapete è la quotazione della benzina o del gasolio, era nel frattempo aumentato di circa 30 millesimi. C'è stato l'aumento di venerdì del market leader, lunedì gli altri compagnie si sono adeguate, e sottolineo che l'aumento alla pompa è stato nettamente inferiore a quello che è stato l'aumento del Platts a livello di quotazione. Qualcuno ha voluto abbinare questo aumento a speculazioni e poi ecco che ci sono finiti dentro i gestori. Allora, i gestori non fanno i listini, li fanno le compagnie petrolifere, non li fanno i gestori. Nel caso specifico c'è stato un aumento venerdì dettato dall'andamento di mercato. Però insomma la circostanza, deve ammettere Squeri, che è strana. La devo interrompere però non per maleducazione, perché la regia mi richiede la linea. In ogni caso questi aggiustamenti a rialzo, secondo quanto ha monitorato il quotidiano Energia, stanno continuando. Lo sciopero è stato scongiurato, per cui forse anche le compagnie hanno ragione, non si sono adeguate per l'imminente sciopero ma per le quotazioni internazionali. Oggi Salvadanaio si sofferma sul tema della benzina dopo la decisione di ieri da parte dei benzinai di annullare lo sciopero che era previsto da oggi a sabato. C'è stato l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico nel quale è stato trovato questo accordo su tutti i punti oggetto della controversia e di conseguenza appunto sciopero scongiurato. Questo però non significa che ovviamente il problema rimanga aperto: prezzi della benzina per molti consumatori troppo alti e soprattutto atteggiamenti che vengono definiti dalle associazioni dei consumatori speculativi in concomitanza di determinati periodi, determinate stagioni e le ferie, i ponti, e soprattutto abbiamo notato, dicono le associazioni dei consumatori, cosa sia successo invece proprio in concomitanza dell'inizio di questo sciopero, quando ovviamente approfittando del fatto che i consumatori ricorrevano a fare il pieno, perché insomma in tre giorni si rischiava veramente grosso, hanno aumentato i prezzi alla pompa e i distributori. Dicono i gestori degli impianti, dicono che in realtà c'è stato un aumento alle quotazioni del petrolio su base internazionale, e Roberto Tascini dell'ADOC, Casper però mi pare che non sia molto convinto di questa spiegazione. Casper è il comitato contro le speculazioni e per il risparmio di 4 associazioni dei consumatori. Tascini. Sì, è un comitato realizzato, come giustamente diceva, di recente, che ha come obiettivo quello e la finalità di contrastare i fenomeni speculativi, quindi non a prioristicamente contro gli aumenti che possono esserci nei vari settori e che possono essere giustificati da l'aumento di costi oggettivi delle materie prime e quant'altro, ma quando appunto si individuano appunto fenomeni speculativi. Nella fattispecie, come giustamente lei diceva, noi abbiamo constatato nei giorni precedenti una sorta di panico diffuso e complessivo che ha preso i cittadini italiani e che dimostra come purtroppo per molti la macchina rappresenta uno strumento essenziale e irrinunciabile e quindi una voce di bilancio difficilmente comprimibile. E a fronte di questo assalto alle pompe, chiaramente non si può generalizzare, però abbiamo ricevuto molte segnalazioni di fenomeni di incrementi dei prezzi che a nostro parere non si giustificano, ed è per questo che abbiamo chiesto un intervento e un'analisi più approfondita da parte dell'antitrust. Siamo anche soddisfatti se, come ha promesso da tempo il Ministero, ci saranno controlli sempre più stringenti da parte anche della Guardia di Finanza. Cioè, poi se questo Ministero avesse anche un Ministro sarebbe anche meglio, insomma, che si prendesse un po' più a cuore tutte queste problematiche, perché il sottosegretario Saglia non può fare tutto lui. Detto questo, Tascini, tutte le tematiche che sono invece oggetto della discussione che si protrae da anni tra appunto le associazioni di categoria e il Governo, il tema della riorganizzazione della rete distributiva in Italia, sono tanti. Ovviamente noi abbiamo anche un paese abbastanza particolare, forse di questa presenza capillare distributori abbiamo anche bisogno, perché io adesso non sono in grado di dire se questo possa essere vero o meno, ma insomma sono tanti, sono troppi i benzinai in Italia. Come dovrebbe, secondo il percepire delle associazioni dei consumatori, essere riorganizzata questa rete? È un tema appunto sul tavolo da parecchio tempo, e noi, proprio per le specificità che contraddistinguono il nostro paese e le sue articolazioni, anche molte abitudini, diciamo, dei consumatori, la rete per noi non deve essere drasticamente ridimensionata. Condividiamo l'obiettivo che si è posto Saglia, quella di andare sia a una riduzione dei costi, ovviamente, della benzina, ma anche di salvaguardare i posti di lavoro. Detto questo, noi partiamo da dati oggettivi, che sono che comunque la benzina italiana costa uno 0,7% in più rispetto agli altri paesi europei, e quindi credo che noi abbiamo focalizzato almeno tre iniziative da prendere, che sono innanzitutto, ed è stato sfiorato prima l'argomento, quello di intervenire sulle famose accise che si sono andate stratificando a partire dal 1905 fino al 2004. Sappiamo che sono una parte rilevante, poi su questa viene calcolata anche l'IVA, e superano anche il 50% del prezzo finale della benzina. Quindi una riduzione ad esempio delle accise di 10 centesimi darebbe una forte mano. E poi soprattutto su altri due punti noi punteremmo su una liberalizzazione, quindi un incremento delle cosiddette pompe bianche, quindi le pompe no logo, no brand, quindi che possono contribuire a calmierare, diciamo, il mercato. E il terzo fronte di iniziativa potrebbe essere, a vantaggio di questi distributori tradizionali, estendere la possibilità di vendere prodotti cosiddetti non oil, e quindi di dare la possibilità di guadagnare anche su altri fronti. E infatti, tra l'altro, questo è un punto sul quale ieri i gestori hanno incassato alcune modifiche da parte di Saglia e alcune rassicurazioni. Poi su Square ci andiamo su questo punto, perché mi piacerebbe capire quali sono le difficoltà che i gestori di impianti hanno se appunto concorrenti vendono prodotti non oil. Adesso ci andiamo, intanto un paio di considerazioni di un paio di ascoltatori e poi il tema della liberalizzazione e gli impianti. I distributori di benzina all'interno dei grandi centri commerciali fanno tanta fatica ad essere installati, costruiti, insediati appunto in questi siti. Per quale motivo? Adesso cercheremo di capirlo. Intanto Stefano da Sassari, che abbiamo preso, caduto, ripescato più volte. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo fare una piccola precisazione inizialmente. Allora, io sono un esperto del settore, nel senso che ho lavorato per una multinazionale petrolifera per quasi 10 anni. E attualmente sono un operatore indipendente del mercato, quindi diciamo, quindi così, distributore indipendente pompa bianca, una che non appartiene a una grande insegna. No, io adesso, diciamo, così, mi sono messo in proprio, ho fatto degli impianti e così via. Però prima ho lavorato per una petrolifera. Vorrei fare alcune piccole precisazioni sulle accise, l'avete già accennato, insomma, e se è abbastanza chiara la cosa. Vorrei fare una precisazione per quanto riguarda il discorso del numero dei distributori. Io sono di quelli che ha partecipato alla riduzione, al piano di riduzione del Ministero degli impianti. Allora, basterebbe molto semplicemente, ma molto drasticamente, a fare quello che la 32 del 98 e successive modifiche e integrazioni hanno chiesto, cioè quello di individuare gli impianti regolari o non regolari nelle varie location, cioè nelle varie città, nelle varie strade provinciali. Certo. Una vera razionalizzazione, d'altronde, insomma, l'obiettivo è questo, no? Esatto. Il problema è che il 50% almeno degli impianti di carburante che stanno nelle aree cittadine sono totalmente incompatibili, ma nessuno li fa togliere. Cosa vuol dire incompatibili? Non sono incompatibili con le norme del codice della strada, il codice della strada che è del 56, certamente non avrebbe mai previsto che un impianto potesse essere sistemato in mezzo a un incrocio o attaccato a un semaforo, visto che addirittura non si può parcheggiare prima di, mi sembra, 12 metri da un semaforo. E insomma, quindi Stefano, lei dice intanto la razionalizzazione, se solo partisse la da questo... Non c'è bisogno di fare nient'altro che far rispettare le regole, ma siccome in Italia questo non si fa mai, non si può fare. Una piccola osservazione... Sì, poi vado da Squeri. Sì, una piccola osservazione proprio nei confronti di Squeri. Allora, i prezzi non li fanno le compagnie petrolifere. I prezzi sono liberi. Il gestore è libero di fare il prezzo che vuole, okay, all'interno di una forchetta standard con un accordo con le associazioni dei gestori. Questo bisogna dirlo, così come bisogna anche dire che il prezzo del barile nel 2004 era intorno ai 25 dollari al barile. È salito fino ai 170, ma non è che il prezzo della benzina è quintuplicato. Sì, sì, sì, l'abbiamo già detto, Stefano, che poi insomma verso il ribasso si è adeguato. Per poco tempo, però ci sono tante cose che vengono dette. Lo so, Stefano. Totalmente fuorvianti rispetto alla realtà. Benissimo, andiamo però al tema che diceva prima, su questa, come dire, Squeri, situazione di illegalità, mi viene da dire, nella quale si troverebbero molte città italiane, perché addirittura avrebbero sul proprio territorio impianti che non avrebbero diritto di stare? Sì, no, è corretta, l'osservazione è corretta, tant'è che il testo di questo disegno di legge comprende questa situazione. Ieri l'abbiamo affrontata e noi la condividiamo, e il testo appunto prevede che i comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione di questi impianti compatibili lo devono fare entro 120 giorni. E quanti sono, Squeri, peraltro? Quanti sarebbero? Guardi, secondo me sono diverse migliaia, saranno almeno 3, 4, 5 mila. Perché la riorganizazione avrebbe un bel taglio secco, insomma. Assolutamente sì, tant'è che, ripeto, l'osservazione è corretta, è previsto un sollecito ai comuni perché tocca loro il compito di individuarli, non solo, è previsto anche l'utilizzo del cosiddetto fondo indennizzi per incentivare la chiusura, certo, di questi impianti, fermo restando, e questo lo dico per la gente che rappresento, che è previsto anche una buona uscita, un fondo per il gestore che si vede chiuso. E certo, perché non è che da un giorno all'altro si possano chiudere, certo, a meno che non sia veramente, come dire, una bomba a cielo aperto, è chiaro, non è che poi questa gente si possa lasciare per strada. Senta, poi vabbè, Stefano interveniva di nuovo sul tema del prezzo della benzina, lo fanno le compagnie, però insomma le compagnie adesso, dobbiamo anche dirlo, estraggono, raffinano, distribuiscono, vendono, per cui chiaramente poi nessuno fa niente per niente, figuriamoci se lo fanno le compagnie petrolifere. Chiaramente si parte da un livello base del costo del petrolio e di conseguenza si devono raggiungere tutti i margini poi che sono l'obiettivo delle compagnie stesse. Allora, io devo andare già di nuovo in pausa, oggi veramente la puntata è volata, ma siccome voglio toccare il tema anche della grande distribuzione, saluto Roberto Simili, direttore dell'Iper, la grande I di Castelfranco Veneto, che praticamente era diventato il benzinaio, non il benzinaio perché lui fa un altro lavoro, ma numero uno in maggio, se ne parlava in tutta Italia del prezzo praticato alla pompa appunto di benzina di questo Iper. Simili, è con noi? Sì, buongiorno a tutti. Le chiedo solo un minutino di pazienza, e ci sono tanti ascoltatori che vorrebbero dire la loro sul tema dei carburanti. Ovviamente ancora continua a scandalizzare la presenza di queste accise che sono difficili da eliminare, perché naturalmente attraverso questo sistema il governo riesce a garantirsi un introito fiscale enorme che altrimenti non riuscirebbe a garantirsi, per cui chiaramente prima di fare marcia indietro deve mettere in moto un meccanismo impossibile, elefantieco. Allora, Roberto Simili, io tra l'altro ricordo ancora 800 24 00 24, il numero verde per le domande dei nostri ascoltatori. Chiedo ancora un minutino di pazienza a Marco da Cuneo, volevo andare appunto da Roberto Simili, direttore dell'Iper, la grande I di Castelfranco Veneto. A maggio, tra aprile e maggio, quando la benzina verde valeva, credo fosse sui stessi livelli di oggi, Simili, €1,40, €1,39, €1,42, a questo Iper le 10 pompe self-service rifornivano benzina verde senza marca €1,27. Questa storia era stata riportata da alcuni giornali, se non altro per la fila di automobilisti che aveva creato, e addirittura se si era creata la leggenda che arrivassero Porsche e Ferrari appunto per fare il pieno. Riesce ancora a mantenere questi prezzi Simili? Oggi qual è la vostra storia? Guardi, noi attualmente siamo a 15 centesimi meno cari sulla media nazionale, quindi continuiamo il nostro trend. Siete ancora più bassi di maggio, quindi? Al di sotto di €1,27 al litro per la verde? Ma siamo a 1,20 di 239, quindi si è leggermente più basso. Addirittura. Mm. Mentre il diesel è aumentato di più confronto la verde. Mm. Come siete riusciti? Con chi attivate delle trattative, un accordo? Chi vi rifornisce? Chi vi permette appunto di praticare un prezzo così basso, per capire se fosse possibile anche altrove simili? Beh, noi abbiamo semplicemente una persona preposta a far questo, che una volta alla settimana, anche forse due volte alla settimana, contatta le varie raffinerie e con loro stabilisce il listino e ci indica noi nei magazzini da chi comprare per tutta la settimana. Mm. E senta, semplice. Ci sono ancora ore di coda per risparmiare sulla benzina da parte dei clienti? E cos'è successo alle stazioni grandi firme intorno a voi? Sono vuote? Insomma, come l'hanno presa i concorrenti? No, allora, rispondo alla prima domanda, le file non ne parliamo di ieri, però comunque la fila c'è sempre, continua ad esserci. E per quanto riguarda, diciamo, la concorrenza esterna, vedo che è servito per abbassare il prezzo medio anche loro, quindi se prima c'era una differenza molto alta, adesso c'è, ma non così alta come prima, quindi sicuramente anche grazie all'intervento sicuramente di qualcuno, loro sono riusciti ad ottenere o a fare degli sconti. Senta un po', ma ne avete approfittato? Vabbè, poi è come se io facessi un'accusa implicita ai distributori che ne hanno approfittato, appunto ammettendo che non ne abbia approfittato nessuno, ma voi ieri per esempio, vedendo tutte queste code, avete avuto la tentazione di aumentare un pochino il prezzo? È rimasto lo stesso di sempre. Di prima aveva detto che comunque il martedì è il giorno in cui, dopo aver fatto la verifica della concorrenza lunedì, si vanno ad adeguare i prezzi o in su o in giù in base anche al listino che ti propongono. Noi abbiamo aumentato, effettivamente il listino è aumentato di un 30 millesimi grosso modo, noi abbiamo aumentato i 10 millesimi perché effettivamente già abbiamo un margine molto basso, non potevamo andare in sottocosto. Benissimo, quindi grazie. Simili, io devo salutarla, l'abbiamo avuta per pochissimo, però questa esperienza ci interessava raccontarla di nuovo. Luca Squeri, questa esperienza, quando lei la sente, la fa balzare sulla sedia, la infastidisce, la innervosisce, oppure insomma è una testimonianza che ci dà l'ulteriore prova del fatto che si possono ridurre i margini di guadagno, come dire, mettendo in piedi evidentemente un sistema di compravendita all'ingrosso diverso? Non lo so, insomma, qual è commento su questo? Non sono assolutamente stupito, perché tutto quello che ha raccontato il signore ha una sua logica molto semplice, che si chiama specchietto per la allodole. Quando parla di comprare il carburante con 15 centesimo di sconto, vuol dire comprare il carburante e venderlo senza nessun margine, nel senso lui l'acquista e lo vende senza guadagnarci un centesimo, secondo me nemmeno pagandosi costi. No, poi probabilmente non l'abbiamo detto, questo va detto, però che è un iper, di conseguenza magari ci sono molte famiglie che vanno a fare la spesa, si chiama come dire anche marketing, e quindi a attirare evidentemente clienti che vadano poi al supermercato. Guardi, io le faccio questo esempio molto più convincente delle mie parole. In Francia, per esempio, ci sono le catene come Carrefour, Auchan, che gestiscono gli impianti anche al di fuori degli ipermercati. Se lei prende un impianto di questa marca in un ipermercato francese, ha un prezzo molto basso. La stessa marca su un altro impianto non legato all'ipermercato ha un prezzo molto più alto. Perché? Per la logica che là dove c'è l'ipermercato gli serve per attirare la gente. Certo. Mentre da un'altra parte deve pagare i costi. Un po' il principio dei vasi comunicanti, insomma, laddove si rinuncia al margine sulla benzina, magari lo si riconquista ovviamente sul banco del supermercato. Vorrei sentire Marco da Cuneo, l'ultima testimonianza, poi andiamo anche a Paolo Landi, che è uscito fuori dalla RAI, subito si infila Radio 24, ma adesso lo salutiamo. Marco da Cuneo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo riportare un po' anch'io la mia esperienza. Allora, io per lavoro faccio circa 25-30 mila chilometri all'anno. Da un paio d'anni nella mia provincia, qua diciamo provincia di Cuneo, io sono anche vicino alla Francia, quindi spesso sconfino anche, quindi conosco molto bene anche la realtà dei distributori al di qua e al di là della frontiera. Diciamo che le cosiddette pompe bianche, qua da noi c'è stata un'apertura capillare di tantissime pompe bianche e devo essere sincero che non ho trovato nemmeno, avvicinandomi nei grandi centri commerciali a Milano eccetera, hanno dei prezzi così concorrenziali. Faccio un esempio, per esempio stamattina un litro, diciamo mediamente un litro di gasolio si attestava sui 1,15-1,16 euro al litro. E quindi insomma l'invito, Marco, mi scusi, devo proprio correre perché mi rimangono tre minuti, è anche ai consumatori di informarsi sulla presenza nella propria città, nel proprio paese, di distributori di questo tipo che non hanno grandi insegne lampeggianti ma che comunque praticano dei prezzi che possono essere assolutamente vantaggiosi. Ecco, esatto. Grazie. No, volevo tornare per un attimo a Squeri. I distributori indipendenti Squeri non hanno nessun supermercato da riempire. Sì, e anche loro hanno come, diciamo, spazio il fatto di avere meno costi di sistema e per cui riescono a fare un prezzo esasperato a ribasso. Però mi consenta due precisazioni. Velocissimo, intanto, sì. Anche le bandiere, quelle conosciute ormai, stanno competendo con sconti, sapete benissimo quante compagnie stanno facendo sconti fino a 10 centesimi. E poi sarebbe molto interessante, lo faremo, andare a vedere che tipo di rispetto anche dei rapporti che si hanno col personale, con i rapporti commerciali col gestore, insomma, che hanno queste pompe private. L'ambito sindacale, sì, no, Squeri, guardi, non ho tempo di andarci, però la ringrazio per averlo sollevato questo problema. Tra l'altro esisteva sul sito del Codacons anche un numero verde per individuare il distributore indipendente più vicino a casa nostra. Noi ieri abbiamo chiamato tutto il giorno, io lo dico a Rienzi, il presidente del Codacons, questo numero verde, non so, non è un numero verde, poi 899 perché era pagamento, 899-422-404, non funziona. Abbiamo cercato anche il presidente Renzi e quindi non siamo riusciti a capire come mai in realtà questo elenco non fosse più disponibile. Un minuto di tempo, me ne scuso, a Paolo Landi, segretario nazionale di Adiconsum, per raccontarci che cos'è www.prezzibenzina.it. È nato a giugno, come sta andando, Landi? Sta andando molto bene, perché andando su questo sito oppure attraverso l'iPhone uno può avere i prezzi effettivi dei distributori a lui più vicino. Non sono, viene anche indicato il percorso per arrivarci. Quindi è uno strumento per conoscere, come dire, e valorizzare quello che è la concorrenza. Noi abbiamo chiesto un sistema simile anche al Ministero, che lo dovrebbe affrontare ma ancora non c'è, proprio per mettere a disposizione dei consumatori laddove si può spendere meno. Però attenzione, quando uno passa per strada, vede meno 10, meno 5, meno 6, 5, meno 10, meno 6, a che cosa è riferito? Ora, bisogna stare attenti, perché quello lì è riferito a un prezzo di riferimento della compagnia, che io conosco. Allora il discorso è, tali distributori dovete esporre il prezzo effettivo sul totem. Sì, allora, guardi Landi, io purtroppo dobbiamo chiudere malamente questa puntata perché non la riusciamo a sentire bene. Detto questo, invito gli ascoltatori ad andare a vedere come funziona www.prezzibenzina.it e magari su questo tema ritorniamo, perché tanto penso che al più presto poi ci sarà un nuovo tavolo di confronto fra Ministero e tutti i gestori, i distributori. Luca Squeri la ringrazio, ringrazio Roberto Tascini, Roberto Simili per essere stati con noi e velocemente chiudo la trasmissione. Buona giornata, a domani.